Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Ma andiamo subito con la sigla di... Questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che inizia ora, ore 20, fino alle 21:30 in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. Ricordo che la trasmissione funziona grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band australiana della area della cittadina di Perth. Loro sono i Cold Meat, è una band che si è formata attorno al 2015 e ora noi ci ascoltiamo da un loro 7 pollici che si intitola Cake and Arts Party, che è uscito ufficialmente 6 giorni fa, ma noi ascoltiamo adesso questo 7 pollici. Season as it's fun. Sì, un saluto a chi ci ascolta, bentornate, bentornati su Zardins Magnetics. Allora, per questa sera, per chi ha ricevuto così l'anticipazione, la promo che anticipa, la frase suonava così: non è morire, è insorgere la parola su lotte, liberazioni e insubordinazioni. Abbiamo scelto questa frase, non è morire, è insorgere la parola, che è un verso di una poesia della poetessa austriaca Ingeborg Bachmann, una poesia tratta da un libro che si chiama Non conosco mondo migliore, un libro che è uscito postumo, insomma, dove ci sono questi versi, diciamo, brucianti, che anche non sono, queste composizioni che non sono nemmeno definitive. E abbiamo scelto questo verso proprio per introdurre un po' gli argomenti di questa sera. Domani è il 25 aprile, quindi abbiamo pensato di accennare anche, di ricordare, diciamo, di parlare anche della resistenza al nazifascismo, vedremo poi come. Parleremo poi di un atto di insubordinazione che è avvenuto in Guinea Bissau contro l'industria estrattivista, e poi introdurremo, diciamo, con degli approfondimenti l'iniziativa che si svolgerà domenica 27 aprile nello spazio autogestito di Via de Rubeis 43 qua a Udine, e cioè una iniziativa di lotta alla guerra. Avremo degli ospiti del collettivo universitario Sumud di Venezia per parlare appunto del colosso Leonardo, del colosso degli armamenti Leonardo, e per così fare un confronto di esperienze, diciamo, tra l'esperienza loro del Veneto e quella che abbiamo noi qua in Friuli Venezia Giulia. Vabbè, poi appunto magari ci saranno in mezzo delle improvvisazioni, anche a seconda di come vengono sui pensieri, e ascoltiamo ancora un pezzo e poi iniziamo. Sì, e iniziamo appunto con questo episodio di insubordinazione importante che è avvenuto nello stato del Guinea-Bissau, uno stato martoriato dalle potenze estrattiviste, martoriato anche all'interno, nel senso che c'è un regime militare praticamente. E in questi giorni, qualche giorno fa, è avvenuta questa cosa, insomma, cioè è stata data notizia di vari incendi ai danni di strutture minerarie, miniere di zirconio gestite dai cinesi, ma comunque a parte questo, appunto protagoniste di questi incendi distruttivi sono state principalmente le donne di alcuni villaggi e alcuni capovillaggio. Nonostante, insomma, il governo naturalmente abbia stretto degli accordi con queste multinazionali estrattiviste, nonostante quindi l'impiego della forza, non sono riusciti le autorità, i militari, la polizia, non sono riusciti a impedire queste proteste di massa, insomma, che sono sfociate appunto nella distruzione di queste miniere. E una cosa importante, appunto, alcune donne sono state arrestate, però la maggior parte sono riuscite a prendere la via della foresta e quindi a darsi alla macchia. E appunto il discorso è questo, il rifiuto, nelle parole di queste donne ribelli, è emerso appunto il rifiuto di questo assoggettamento della loro terra, e anche questa necessità di una lotta per la sopravvivenza, perché queste miniere hanno distrutto le risaie, hanno distrutto praticamente le loro fonti di sostentamento primarie, cioè le risaie, e hanno inquinato a tal punto l'acqua da impedire l'esistenza, insomma, di pesci in questi corsi d'acqua. E niente, questo come gesto, cioè come notizia iniziale, diciamo, perché è una notizia importante, una notizia che dà almeno un po' di speranza. Dicevamo, domani è il 25 aprile, fuori da ogni retorica e da ogni così commemorazione ufficiale, io volevo leggere una pagina di un romanzo che si intitola L'Agnese va a morire. Ne abbiamo già parlato qualche puntata fa, perché c'era questo episodio, questa breve, insomma, cioè l'inizio praticamente della storia, che racconta di come questa donna entra in maniera attiva, diciamo, nella lotta partigiana e ammazza un nazista, e lo ammazza dopo che questo nazista ha ucciso la sua gatta. E cioè lei, appunto, Agnese, ne ha subite di cotte e di crude, gli hanno ammazzato il marito, eccetera, però non ha mai avuto, non era riuscita fino a quel momento a trovare la forza, diciamo, di agire. L'uccisione, questa uccisione inutile, questa crudeltà proprio gratuita, totalmente gratuita, di ammazzare la gatta, e le dà la forza della vendetta, e lei ammazza questo nazista e poi, appunto, entra attivamente nella lotta partigiana. Questo libro è, io appunto l'ho ripreso in mano dopo decenni, ma è interessante perché non ha peli sulla lingua, cioè è una narrazione ancora veramente non mediata da giochi politici, diciamo, democraticisti. E volevo leggervi una paginetta che parla dell'assalto da parte della brigata partigiana a una caserma di fascista, e un assalto che va a buon fine. Arrivarono con la luna alta e ci si vedeva come di giorno. andarono diritti alla caserma fascista. In mezzo al gruppo i tre in borghese e uno era il comandante. Ai lati i quattro in divisa, coi mitra imbracciati. Clinto, grande, biondo, che sapeva qualche frase della lingua per essere stato una volta a lavorare in Germania, si fece avanti e bussò, ma non fu facile farsi aprire. Il soldato di guardia chiamò un sottufficiale, poi ne venne un altro e infine il tenente. Ognuno di essi parlamentava con l'esterno attraverso un finestrino e Clinto ripeteva le stesse parole, diceva che aveva catturato tre partigiani che volevano consegnarli. La parola partesani scuoteva i nervi ai fascisti. Erano contenti dell'acquisto, immaginavano nuovi interrogatori, colpi, offese, urli, lamenti. Preferivano però che tutto questo fosse accaduto di giorno. La notte, pensavano, è fatta per dormire. Ma il grande tedesco biondo si impazientiva fuori del portone. Bisognava aprire, se no era una grana. Non si mostravano mai molto teneri i tedeschi, neppure verso le brigate nere. «Aprite», ordinò il tenente. Fu una cosa sbrigativa. Clinto, con una raffica, abbatté tutta la scala gerarchica, ufficiale e sottufficiali. I militi, accorsi semisvestiti, si trovarono sotto i buchi neri dei mitra. Si persuasero subito alla resa, vedendo in terra i corpi fermi dei capi. Uno andò avanti con le chiavi e aveva contro la schiena la pistola del comandante. Aprì una cella dopo l'altra, preoccupandosi soltanto di far presto. Nella prima c'erano Magon e il cognato, che saltarono su dai pagliericci, cacciarono i piedi nelle scarpe senza lacci, si misero la giacca lungo il corridoio, trovarono subito dei mitra, come se ne sentissero l'odore. Ma le due celle vicine parevano vuote, buio, silenzio, neanche un respiro. «Fate luce», disse il comandante. Il giglio scaraventò avanti a calci un milite che tirò fuori immediatamente una lampadina tascabile. Il raggio bianco investì il pagliericcio, scoperse una forma umana, lunga, rigida, un viso dissanguato. «È 500», disse il comandante, «morto». Strappò al militare la lampadina, gli lanciò sulla bocca un pugno tremendo, lo buttò a terra come uno straccio. Parve impossibile tanta forza nella sua piccola persona. «Fallo fuori», disse al giglio. Non aspettò il colpo di pistola, corse nell'altra cella. Anche lì un corpo disteso sul pagliericcio, un volto gonfio e nero. Ma si muoveva, sbatteva le palpebre scure al chiaro della lampadina. «Walter», chiamò il comandante. Il volto risuscitò nella luce. Walter si levò seduto, fece un sorriso storto a sinistra, perché la guancia destra era enorme, immobile. Disse: «Bravi, ma io non posso camminare, ho i piedi rotti». «Ti porteremo», rispose il comandante. Chiamò con un fischio i compagni. Nell'atrio, i militi, 10 o 12, erano in fila contro il muro e avevano di fronte soltanto Clinto, tranquillo, che gli parlava in tedesco. «C'è più nessuno nella caserma?» domandò il comandante. «No», balbettò uno, guardando sempre Clinto e il suo Sten. «Né soldati né prigionieri», insisté il comandante. Arrivò Magon di corsa, disse: «Ho girato dappertutto, non c'è più nessuno». Vennero dal corridoio i tre che portavano 500, poi due con Walter, seduto sulle loro mani intrecciate. Era piccolo, pesava come un bambino. Il comandante fissò la faccia del 500, magra, bianca, addormentata, e poi la sconnessa sorridente faccia di Walter. Disse dalla soglia: «Fateli fuori tutti». Lasciò passare la raffica lunga, guardò a destra e a sinistra, anche sulla piazza non c'era nessuno. «Avanti, ragazzi», ordinò, spegnendo la lampadina. Uscirono coi loro carichi, le strade erano deserte, sembrava un paese privo di abitanti perché la paura stava zitta, nascosta, chiusa in casa. Marciavano, battendo il passo pesante, anche quelli che trasportavano il morto. Clinto gridava ogni tanto, con scomposta voce tedesca: «Eins vai, eins vai». E così passarono con gioia davanti alla caserma dell'SS. We'll be right back. E intanto stiamo ascoltando in questa band di Milano, anzi tra Milano e Sondrio, band che si è formata all'incirca 7-8 anni fa, e questo è il loro album che si chiama Eterna Lotta, uscito nel 2024. Loro sono i Lucta. Rimaniamo sempre, diciamo, in ambito 25 aprile, liberazione del nazifascismo, guerra partigiana. E allora, c'è un fatto che è emerso, insomma, un fatto di, io lo chiamo, di collaborazionismo esplicito, diciamo proprio smaccato, e che non è ancora avvenuto, ma avverrà domani tra Monfalcone e il Carso. Allora, in questo territorio da moltissimi, da 70 anni, si svolge il 25 aprile una gara ciclistica nazionale. Si tratta della Coppa Montes, Gran Premio della Resistenza. Quindi è una gara ciclistica che viene dedicata a appunto alla, a Silvio Marcuzzi, nome di battaglia Montes, che era componente dell'intendenza Montes, che partigiano, che venne medaglia d'oro alla Resistenza, che venne torturato e massacrato nella caserma di Palmanova. E questa gara ciclistica, boh, è una roba super istituzionale, nel senso che ci sono appunto squadre varie, c'è il CONI di mezzo, ma la motivazione, diciamo, fondante di questa manifestazione sportiva era quella di, da parte dell'AMPI locale, era quella di commemorare Silvio Marcuzzi Montes, ma anche gli oltre 1000 partigiani caduti nella provincia di Gorizia. E quindi dimensione istituzionale, i comuni che patrocinano, eccetera. Però che cosa succede quest'anno? La novità di quest'anno è che parteciperà l'Israel Cycling Team. È una novità di quest'anno che viene pubblicizzata dall'AMPI in maniera così trionfale. Allora, questa roba è una roba che non si può sentire, e appunto io la definisco un atto di collaborazionismo bello e buono. E tra l'altro sponsorizza, nonostante questa roba, visto che poi si riempiono la bocca certi cooperatori di solidarietà verso la Palestina, questa iniziativa è sponsorizzata dalla Lega Coop anche. E evidentemente è passata così, cioè nessuno ci ha fatto caso, evidentemente si stanno preparando, si parano il culo e sostengono questi democratici. E anche se fanno lacrime di coccodrillo, magari appunto parlano di violazione degli aiuti umanitari, eccetera, però in realtà dietro questa facciata di lacrime di coccodrillo si parano il culo e si preparano a come dire, mettersi vicino, stare sempre dalla parte, insomma, dello stato sionista e genocida di Israele. E niente, questo, insomma, è giusto che si sappia con chi si ha a che fare, con chi abbiamo a che fare, anche tanti rappresentanti, diciamo, dell'antifascismo istituzionale, che razza di gente è. No, io volevo solo dire che non potrebbe essere diversamente. non potrebbe essere diversamente, cioè. E poi volevo dire che un altro motivo per cui si faceva questa corsa era che l'intendenza diciamo, era organizzata in modo da raggiungere, ecco, in bicicletta, paese per paese, i singoli, diciamo, le singole famiglie che collaboravano al sostentamento, diciamo, all'alimentazione, alla nutrizione delle brigate partigiane che erano nel Carso o insomma o anche più lontano, e quindi era un legame concreto con quella vicenda lì. E poi appunto c'era la medaglia d'oro Montes alla memoria, appunto è stato torturato e ucciso insomma alla caserma la caserma lì di Palmanova, Piave, sì. Brava. Di Palmanova, sì. Sì, che non mi veniva in mente. E, questo, sì, era. È una vita che c'è quella corsa ciclistica lì. È vero che non potrebbe essere diversamente, però è anche vero. Che va bene, cioè non si può anche star zitti. Poi quello che sta succedendo a Gaza di continuo, cioè il massacro continuo, e proprio l'intento di sterminare oramai cioè robe allucinanti, cioè dichiarato apertamente, e questa è l'assenza di reazioni da parte anche della sinistra, diciamo, democratica, perché alla fine veramente, e cioè questa roba qua è una, sì, non è che non si può lasciarli in pace, insomma, un escrace come facevano in Argentina, cioè uno sputtano pubblico, per quello che vale, se c'è qualcuno che magari anche non dei nostri, diciamo strettamente, ma che ha un po' di sensibilità, magari qualcuno si incazza anche con questi qua, per me. stiamo ascoltando i Fukuoka, band di, della zona di Cuneo, da questo loro album Spaccati di vita quotidiana. Sì, e continuiamo a parlare anche di collaborazionismo e arriviamo però alla Leonardo S.P.A. E se fate un giro nel sito della Fondazione Leonardo, a parte sì, ci sono tantissimi materiali propagandistici e ci si accorge, cioè si percepisce subito che c'è tutto uno stuolo di appunto lavoratori e lavoratrici dell'immateriale, come si suol dire, insomma, della conoscenza, anche non solo quindi aspiranti scienziati o tecnocrati, ma anche persone che hanno studiato, diciamo, arte, queste cose qua, che si prestano, cioè che mandano avanti, che lavorano, sono a stipendio per la Leonardo, perché la Leonardo è una fabbrica di morte, però con una mano, per un aspetto, perfeziona questa fabbricazione di morte. Con l'altra, chiaramente, con tutti i soldi che ha, crea tutta una così un'immagine culturale pubblica, no? Prepara la società in questa maniera anche ad accettare lo stato di guerra che avanza. Ed è una roba abbastanza. Io sono andata, perché volevo farmi male, ho ascoltato un'intera lezione, un intero incontro di una puntata della Fondazione Leonardo School, che è una iniziativa che praticamente vuole avvicinare gli studenti delle medie superiori alle professioni STEM, quindi appunto alle scienze dure, diciamo, no? Scienza, tecnologia, informatica, matematica, eccetera. E c'erano questi quattro personaggi. Uno, il docente, era Elia Bombardelli, relativamente giovane, insomma sotto i 40, che si spiegavano, insomma, quanto è bella la cybersicurezza, quanto è bella l'intelligenza artificiale, perché si possono prevedere le alluvioni, quanto come poetica la forza di gravità, insomma. E magari, cioè, comunque andare ad ascoltare è interessante, perché proprio è come una specie di tuffo in una dimensione, sì, di come un po' vanno le cose, stanno andando le cose, insomma. Allora, i compagni del collettivo Suomudi di Venezia, che verranno un po' a parlarci, a presentarci il dossier O la guerra o la vita, che parla del stabilimento della Leonardo di Tessera e anche quindi delle implicazioni del comune di Venezia, ma anche dell'università, no? Perché appunto Ca' Foscari, ma non solo Ca' Foscari, ma addirittura la rettrice di Ca' Foscari fa parte una delle componenti delle Fondazioni Leonardo, quindi proprio alle mani in pasta. E c'è una storia di collaborazione, insomma, molto attiva tra l'Università di Venezia e la Leonardo, e quindi anche l'Università di Venezia è implicata nello sterminio, è complice dello sterminio dei palestinesi. E, appunto, questa, diciamo, commistione, questa compromissione dell'università direttamente nell'industria bellica e del controllo sociale, c'è anche sul nostro territorio, c'è anche agita dall'università, ma sappiamo insomma che c'è uno stabilimento Leonardo anche a Ronchi di Monfalcone, detta anche Ronchi dei Partigiani da qualcuno. E lo stabilimento di Ronchi fa appunto i velivoli a comando remoto, insomma i droni praticamente, e mentre quello di Tessera gli elicotteri da combattimento e anche rinnova, diciamo, dei velivoli di guerra che sono obsoleti, li rinnova e li ritorna gli ridà vita a questi velivoli. Allora, per la nostra esperienza, il contesto, diciamo, territoriale di Ronchi è stato molto impattato dalla presenza della Leonardo. Prima della Leonardo c'era già la Meteor, c'era già una industria bellica, diciamo, e un po' tutto il territorio, dal punto di vista economico ma anche di sottomissione, diciamo, socioculturale, è toccato da queste presenze ingombranti. Difatti non è facile, abbiamo potuto constatare che non è facile parlare con le persone, con gli abitanti della cittadina, in termini negativi della Leonardo. Cioè nel territorio, diciamo, di Ronchi e di Monfalcone c'è un museo, il museo della cantieristica di Monfalcone, e questo museo praticamente in collaborazione con la Fondazione Leonardo e con il consorzio culturale del Monfalconese ha organizzato, ad esempio, meno di un anno fa, una mostra sui droni e in generale una mostra, diciamo, storica, fotografica, proprio su questi strumenti che sono i droni. Sui droni e i velivoli a pilotaggio remoto, ecco. Sì, si tratta di una... la mostra è passata, però c'è documentazione nel sito, ad esempio, sì, del museo stesso, ma anche del consorzio culturale del Monfalconese. È una cosa apologetica, no? Cioè, fa vedere come questa... già la Meteor ha lasciato il segno nella storia dell'aeronautica, vi leggo dalla presentazione... E oggi resta un asset in espansione per i molteplici utilizzi in ambito civile e militare. In pratica parte, insomma, dalla Meteor, racconta tutta la storia e poi arriva alla vitalità, così viene definita, insomma, all'intraprendenza della Leonardo. È una cosa che mi ha colpito tra le altre è che il Museo della Cantieristica di Monfalcone, dove si fanno queste cose, è stato fondato nel quartiere Panzano di Monfalcone, che era un villaggio operaio, questo quartiere, che è realizzato dai fratelli Kosulic a partire dal 1908. E questo quartiere popolare è stato bombardato dai bombardamenti alleati. No, sì, giusto, volevo solo inciso. Sì. I Kosulic di Lussino hanno fondato i cantieri di Monfalcone, o cantieri dell'Adriatico, diciamo, riuniti dell'Adriatico, nel 1908. Prima del 1908 erano territori prevalentemente agricoli, mm-hmm, o al massimo di pescatori, non esistevano città, realtà urbane, e insieme contestualmente all'officina del cantiere è stato predisposto questo quartiere operaio sulla, diciamo, falsariga di quelle che erano le città operaie in Inghilterra, perché comunque le maestranze erano dei cantieri, erano comunque provenienti dall'Inghilterra, ecco, e quindi è un, diciamo, quello che è rimasto di quel villaggio lì è di interesse, di notevole interesse, insomma, a chi interessa, ovviamente a chi interessano queste cose, ma voglio dire, è una testimonianza di come erano concepite le urbanisticamente le città, non, ecco, con un'idea del ruolo che aveva la classe operaia anche, mm-hmm, dentro questo progetto, ecco, non solo per come lo conosciamo, ecco, diciamo, in Italia, con la sua crescita, diciamo, fra virgolette, disordinata, caotica, dei quartieri operai, ecco, che hanno avuto sì, nella penisola italiana, ecco, queste erano, è come una testimonianza, ecco, un po' eccezionale, ecco, sì, di quello che era. Ecco, tra l'altro, quello che dicevi della vocazione, diciamo, agricola, no? Prima del difatti, anche loro dicono che durante il dopoguerra, vi leggo direttamente dalla presentazione, negli anni che videro ferma la produzione aeronautica nazionale a causa dei vincoli dettati dal trattato di pace, Lauri, che era questo qua, insomma, Furio Lauri, che appunto ha fondato la Meteor a Ronchi dei Legionari nel 47, che era un militarazzo, sì, e allora lui dice, si adoperò per evitare che si disperdessero sul territorio le competenze e le maestranze del settore, il patrimonio tecnico e l'aeroporto di Ronchi. Allora, grazie al suo impegno, infatti, questo fu affidato alla Meteor affinché, dopo i bombardamenti del 1944, potesse essere nuovamente operativo al traffico aereo civile. E però ci dicono anche, tra i vari aneddoti che ruotano attorno a questa vicenda, le fonti ricordano che Lauri dovette affrontare alcuni scontri popolari per via delle piste d'atterraggio occupate dai contadini intenti a trasformarle in vigne. Quindi i contadini si ricordavano che lì non c'era, c'erano anche... Cioè... Sì, no, l'unica cosa... No, prima parlavano di Panzano, sì, appunto, che è, diciamo, è... fa parte del contesto officine dei cantieri navali. Monfalcone, mm-hmm, questo invece appunto era strettamente legato ai cantieri navali, perché la pista di decollo e atterraggio di Ronchi è stata, diciamo, predisposta nel momento, diciamo, dopo la fine della prima guerra mondiale, in cui arriva appunto il Regno d'Italia in quelle terre lì, che erano cosiddette irredente. Nel momento in cui arriva il Regno d'Italia, i cantieri di Monfalcone aprono un reparto di idrovolanti sì, per uso militare, appunto, inizialmente idrovolanti, cioè sono velivoli con, come si dice, che decollano dal mare, e quindi c'era, come ho detto, un reparto a Monfalcone, poi progressivamente viene spostato appunto a Ronchi, che è veramente a 2 chilometri di distanza, però è nell'entroterra, e lì appunto era una realtà agricola, dicevo. E Sì, insieme, diciamo vicino a questa pista di decollo, c'era una piccola struttura, piccolissima struttura adibita appunto, che faceva parte comunque dei cantieri, sempre dei cantieri. Mm-hmm. Negli anni 30 con Mussolini eccetera, lì è entrato insomma sempre di più l'intervento dell'industria sia militare sia insomma di Stato, perché appunto Mussolini aveva fondato l'IRI nel frattempo, l'Istituto di Ricostruzione Industriale, l'intervento dello Stato lo Stato etico nell'industria manifatturiera, e quindi sì, c'è stato un certo sviluppo di quel aeroporto lì, che poi è stato, dopo l'8 settembre, è stato occupato dai nazisti e quindi era utilizzato dall'aeronautica nazista, tedesca, eccetera. Poi succede appunto, contestualmente, sono paesi dove c'è stata partecipazione di massa alla resistenza, essendo comunque la stragrande maggioranza delle famiglie avevano un parente, tutti hanno un parente lì che ha lavorato nei cantieri, quindi erano di base, erano che fossero operai, che fossero adesso tracciatori eccetera, comunque una grande partecipazione alla resistenza. Quindi c'è stata l'occupazione delle terre, c'è stata una specie di inizio dell'occupazione delle terre, c'è stata l'occupazione poi dell'esercito jugoslavo, no? Quando gli jugoslavi hanno dovuto ritirarsi, lì ci sono cioè è arrivata diciamo così l'Italia nel 47, gli operai cantierini hanno fatto quello che diciamo è noto come l'esodo dei cantierini, cioè si sono spostati in massa, in migliaia, in Jugoslavia e hanno partecipato diciamo così alla costruzione del socialismo, se non che è durato veramente poco, perché poi Tito e Togliatti hanno rotto i rapporti e quindi la cosa è finita molto male per questi che si erano andati in Jugoslavia. Era per dire, ecco, il contesto territoriale dovrebbe essere, cioè diciamo così, c'erano tutte le premesse perché fosse ostile, no, allo sviluppo di una industria. All'inizio era uno stabilimento, una fabbrica, che però ha subito collaborato fin dagli anni 50, fine degli anni 50 hanno cominciato a lavorare di nuovo con l'esercito, questi della Meteor, sì, l'aeronautica militare, appunto hanno cominciato a mettere a punto questi bersagli che li testavano a Salto di Quirra, tra l'altro, infatti, dove, al poligono, sì, dove era stato in quegli anni lì, primi anni 60, è stato inaugurato, eccetera eccetera. Poi insomma si è sempre più allargata la questione, ma difatti anche questa mostra appunto sui velivoli a pilotaggio remoto appunto è stata promossa da, come si diceva, dal Comune di Monfalcone, dal Consorzio Culturale Monfalconese, Eco Museo dei Territori, Genti e Memorie tra Carso e Isonzo, in collaborazione con l'Aeronautica Militare Italiana, nell'ambito degli eventi promossi per il centenario della Forza Azzurra. Sì, 24 appunto, leggo sempre dalla loro propaganda, il cui focus centrale, grazie alla partecipazione di Leonardo, è dedicata appunto a questa società Meteor, e loro dicono poi c'è questo parallelismo che mi ha colpito un po', loro parlano, cioè nell'opuscolo dei Compagni di Venezia c'è questa, in copertina c'è vista dall'alto, diciamo, Piazza San Marco a Venezia, e sotto c'è una visuale dall'alto appunto della Piazza San Marco, e sotto una visuale dall'alto dello stabilimento Leonardo di Tessera, che è mostruosamente esteso, e qua parlano di questa visione dall'alto, insomma, della pista aeroportuale, che è contigua allo stabilimento Leonardo, anche qua, che è stata progettata, diciamo, come se fosse un velivolo con due ali aperte, ecco. Quindi c'è una roba anche di così, un'evocazione anche grafica, diciamo, della questione. Allora, concludiamo questo discorso, diciamo, della Fondazione Leonardo, rimanendo anche su questa faccenda della vocazione, diciamo, proletaria, comunque della, e anche, cioè, di questa forza proletaria considerevole sul territorio di Monfalcone, Ronchi, eccetera. Appunto, una cosa che colpisce anche di questa Fondazione Leonardo è che loro si stanno appropriando, ma sono avanti in questa appropriazione, degli archivi storici. E ci sono questi archivi storici, loro li chiamano Archivo Storico di Leonardo, Ansaldo, Otto Melara, Fincantieri. Ma si tratta di archivi che loro hanno raccattato evidentemente sul territorio, insomma, prevalentemente fotografici e di documenti che riguardano la storia del lavoro. Quindi in pratica la quintessenza degli sfruttatori e i fabbricanti di morte e i produttori di guerra si appropriano della storia del lavoro, cioè una roba come una specie, espropriano, cioè io ho guardato un po', se andate a vedere nel sito è una roba allucinante, ci sono migliaia di documenti fotografici, quindi immagino ci sia, quindi c'è questa roba anche un po' della mitizzazione della memoria, no? Che va anche di moda così, tirar fuori le robe, sì, la memoria del materiale, no? Della storia materiale, però è fatta dal nemico, cioè il nemico si appropria della storia materiale degli sfruttati. Questa è una roba è una roba pesante, bisogna, insomma, tenere presente anche questa. Rispetto a l'archivio storico dell'Ansaldo, che rilancia il nucleare, siamo il 25 aprile, non siamo lontani da un 7 maggio, diciamo, abbastanza recente, in cui Genova era in fiore. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band di Trieste, loro sono l'Ordegno e questo è il loro ultimo album uscito circa una settimana fa, si chiama Nel risveglio del Porfido. Comunque avremo occasione per riascoltare senza dubbio prossimamente, nelle prossime settimane, l'Ordegno Trieste. Ecco, allora mi inserisco sfumando un po' questo brano che stavamo ascoltando per invitarvi ancora una volta a questa iniziativa che abbiamo programmato per domenica 27 aprile la mattina alle ore 11. Saranno con noi alcuni redattori dell'opuscolo O la guerra o la vita, breve dossier sullo stabilimento Leonardo S.P.A. Tessera, comune di Venezia, e sono compagni e compagne del collettivo studentesco SUMUD dell'Università di Venezia. Ecco, dicevo l'altra, una puntata, un'altra volta, dicevo, su questo opuscolo, dice appunto, mi sono reso conto che non avevo detto il titolo, O la guerra o la vita, punto esclamativo, è anche un appello al discorso che la guerra è guerra alla vita, no? Quindi o la guerra o la vita, intende anche che è una scelta, che è una scelta e punta il dito a ciascuno di noi, a tu per tu, no? Ci prende proprio, ci interroga direttamente questa alternativa, questa biforcazione, o la guerra o la vita, non ci sono alternative. Io, siccome anche non sono più uno studente da tanto, sono anche insomma ormai stagionato, possiamo dire che posso avere anche uno sguardo, mi permetto, uno sguardo su quello che sarà, cioè su quello che è così lo spirito di questo opuscolo. L'ho già detto un po' la volta scorsa, ma lo voglio ribadire, che è veramente un cioè come un si sente, diciamo, una spinta della gioventù, diciamo semplificando così in maniera schematica, ma si può anche dire che c'è una logica diversa da quella dello Stato, no? C'è la logica un po' dell'utopia, c'è la logica dell'utopia della gioventù. Ecco, allora, secondo me, disponiamoci così, chi verrà a questo incontro, come chi veramente aveva scritto uno scrittore romantico, von Kleist, aveva scritto: a volte non sappiamo cosa dire, però la faccia dell'interlocutore ci strappa le parole che prima neanche lontanamente avremmo concepito. Quindi lui questa diciamo questa intuizione, ovvero che non esiste un ordine propriamente, un ordine delle parole, non esiste a priori, ecco, si fa lì per lì, no? Tante volte noi non sappiamo cosa dire, però guardiamo che abbiamo l'incontro porta a dirci qualcosa, no? A dirci qualcosa che lontanamente, neanche lontanamente avremmo pensato prima. Lui quella la porta agli estremi, no? Estremi, diciamo, poetici, nel senso della sua poetica, nel senso della sua produzione creativa e artistica, eccetera. Noi lasciamola perdere questa, per il momento, questa sua tensione, anche autodistruttiva e anche volendo propria della gioventù. Bisogna avere anche appunto un insieme a questo spirito, questa, come si dice, questa incontinenza delle passioni che aveva von Kleist, bisogna avere anche un'immaginazione che permetta di fronteggiare, no, quello che è l'ordine dello Stato, perché altrimenti l'ordine dello Stato ti annienta, ecco, ti schiaccia con la sua potenza. Noi invece abbiamo anche un apparato immaginario, ecco, di Oltre che il cuore abbiamo anche la mente, ecco, come diceva un compagno, anche un altro compagno, insomma, che puntava tanto su questo stare insieme di tante cose apparentemente incompatibili, come appunto mani, mente e cuore. E così, ribadisco, ci sarà questo incontro allo spazio autogestito in via De Rubes 43 a Udine domenica mattina 27 aprile a partire dalle ore 11, lotta alla guerra, da Tessera a Ronchi, un incontro col collettivo studentesco su Mood. E così, a seguire aperitivo con la calma, ecco, e uno spuntino benefit per lo spazio. Sottostare al gioco del potere, prendere posizione, restare fermi fino a che l'ultimo sopruso. We'll be right back. Stiamo ascoltando questa band statunitense, esattamente di Seattle, lo stato del Washington, band che si era formata a cavallo tra gli anni 90 e 2000 e nel 2002 fece questo album omonimo, il nome della band il Phalanx, e comunque successivamente all'album la band è, diciamo, scomparsa. Forse aveva fatto in precedenza una demo e uno split. Comunque loro sono i Phalanx, direttamente da Seattle, Washington, 2002. Bene, sfumiamo questa band, comunque ascolteremo dopo in seguito a questa mia interruzione, anche perché la trasmissione sta per terminare. È Zardins Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle ore 21:30. Comunque la band, appunto, sottofondo sono gli Ingrown, band della cittadina di Boise, che è la capitale dello stato di Idaho negli Stati Uniti. Comunque album uscito adesso, in questo ultimo mese, band che esiste dal 2015 circa 2014. Comunque, come ho detto, siamo agli sgoccioli per questa trasmissione. Ricordo i nostri contatti. Ah, tra l'altro trasmettiamo da Radio Onde Furlane, da Udine, e la trasmissione funziona ovviamente grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Come di consueto vi detto i nostri contatti, Se volete scriverci tramite posta elettronica potete farlo scrivendo a liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121. Ripeto, se volete scriverci in forma cartacea, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121. Bene, chi volesse riascoltare questa trasmissione, quella delle volte scorse, può andare in rete cercando zardinsmagneticsradio.noblogs.org, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, allora l'appuntamento è tra, presumo, vediamo se riusciamo in qualche modo a mandare la trasmissione registrata, perché in radio qui non potremo essere presenti giovedì 1° maggio, cioè il prossimo giovedì, e comunque salutiamo tutti chi ci ascolta, ma soprattutto chi ci ascolta dalle web radio di Radio Eustachio domani venerdì dalle ore 11 del mattino, e chi ci ascolterà su Radiazione sempre domani venerdì dalle ore 17. Ciao a tutti e vi lascio con questi Ingrown, band statunitense, dal loro ultimissimo album che si intitola semplicemente Hidao, che è lo stato di provenienza di questa band. Ciao a tutti.